Agorà in onda. Agorà in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Eccoci tornati, allora dopo la pubblicità alle 10 e 5 minuti primi a parlare con il nostro avvocato Marco Mampieri e quest'oggi anche con il sindaco, ospite qui in studio a Radio Onda Libera, il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna. Stiamo parlando della situazione della Valle del Sacco, c'è stata un'introduzione prima della pubblicità, abbiamo fatto diciamo il punto della situazione, adesso lascio la parola a Marco per continuare appunto insieme al sindaco Pierluigi Sanna di Colleferro. Continuiamo a parlare di questa vicenda che è a cuore un po' di tutti, non è solamente a cuore del comune di Colleferro, ma un po' tutti noi che facciamo parte della Valle del Sacco, e in modo particolare di quella terribile discarica che abbiamo proprio davanti. Prego. Allora, abbiamo fatto prima della pausa pubblicitaria una panoramica di quella che è la situazione della Valle del della città di Colleferro, dove nasce la fonte degli inquinanti, quindi una fonte molteplice di inquinanti che hanno caratterizzato la pur giovane città di Colleferro, e quindi il sindaco ci ha fatto una storia di quella che è la situazione della sua città, una situazione quindi abbastanza eterogenea dal punto di vista della complessità ambientale e che da ultimo ovviamente è diventata ancora più complessa con la possibilità di poter riaccendere i camini degli inceneritori qui, e su questo un inquinante in più che si aggiunge a tutta la vasta gamma di criticità che il sindaco poco prima della pausa ci ha illustrato. Quindi, allora, come hai detto tu, sindaco, i problemi non sono legati solo allo smaltimento di rifiuti. Parlaci però di quello che è la situazione della discarica di Colle Fagiolara e del cosiddetto revamping degli inceneritori. Hai detto che ti sei impegnato e ti impegnerai a chiudere la discarica entro il 31 dicembre del 2019. E quindi parlaci di questa situazione, sei stato tu autore anche di una protesta molto forte, vorrei che raccontassi quella che è la situazione per questa particolare attività che stai svolgendo in veste istituzionale, in veste politica, e quindi ti chiedo di parlarcene. Allora, all'interno della modifica della storia della città di Colleferro, da città industriale a città dell'immondizia, la discarica e l'inceneritore rappresentano due punti cardine di quella che è stata questa sciagurata occasione di modifica economica e produttiva di una città. La discarica di Colle Fagiolara è una discarica che negli ultimi anni è cresciuta purtroppo solo in altezza. È una discarica che sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista ambientale è divenuta molto pericolosa, perché le sue pendenze, la sua situazione generica e generale sono davvero preoccupanti, soprattutto per diciamo eventuali non tenute di tutto quanto l'apparato in discarica. Io ho ordinato e ho controllato che tutto quanto il procedimento giuridico seguisse il percorso dello spostamento dei tralicci in modo tale da riabbassare le quote e concludere la parte di coltivazione interna in modo tale da poter procedere il 31 dicembre del 2019 subito alle operazioni di messa in sicurezza e di capping definitivo, perché quel luogo diventi per i prossimi 25 anni un luogo attenzionato per ogni anno che è stata aperta la discarica. Io ho chiesto alla Regione Lazio e ho ottenuto l'abbancamento dei soldi che serviranno per il post mortem e per le operazioni di messa in sicurezza, e il controllo dovrà essere fatto per ogni anno che è stata aperta, almeno un anno di cui sarà chiusa, quindi se è stata aperta 25 anni dovrà essere fatto per 25 anni anche dopo la sua chiusura. Il percolato dovrà essere raccolto e portato via e smaltito, la piantumazione degli alberi dovrà essere fatta al più presto in modo tale da salvaguardare soprattutto il parco della Selva di Paliano, che è stato il parco naturale che più ha rimesso diciamo in gioco la sua esistenza per colpa della discarica di Colle Fagiolara. la questione. Ah, scusa. No, ti volevo chiedere quindi dei tralicci che saranno propedeutici proprio a completare questo percorso di chiusura, perché volevo ricordare ai radioascoltatori che all'interno della discarica di Collefaggiolara esiste un elettrodotto, e quindi questo complica ancora di più la situazione anche della gestione della discarica. Quindi il post mortem potrà essere avviato, certo, anche attraverso lo spostamento di questo. Certo. Oggi nessun sindaco ha avuto il coraggio di fare quello che ho fatto io l'ho fatto basandomi su pareri tecnici ambientali affidabili. E oggi non sarebbe possibile avviare le operazioni di capping, che consistono soprattutto nello spargimento di un metro di terreno vegetale nella piantumazione degli alberi su quel terreno vegetale, perché le pendenze sono praticamente pendenze incredibilmente ripide. La questione non è una questione di maggiori abbancamenti, perché non c'è alcun ampliamento né del perimetro né delle autorizzazioni all'abbancamento. Anzi, io e l'assessore Calamita abbiamo calcolato attraverso gli studi tecnici un minore quantitativo di abbancamento rispetto a quello autorizzato tanti anni fa dalla Regione Lazio. Quindi la discarica non si amplia né nel perimetro né nelle autorizzazioni rispetto all'abbancamento. Ecco, su questo, scusami, mi puoi fare una panoramica per far capire? C'è la possibilità di ampliare la volumetria complessiva della discarica, giusto? Era questo in discussione? Quando il Consiglio Comunale parecchi anni fa approvò il piano di riordino, parlava di un maggiore abbancamento. Noi non crediamo opportuno procedere rispetto a maggiori abbancamenti. Noi crediamo opportuno chiudere la discarica il più presto possibile, riportando all'interno del famoso canyon dove passa l'elettrodotto, i famosi tralicci, quanto è stato messo in più sulle cime di quella che è diventata oramai una collina, e concludere al più presto la forma, diciamo, cosiddetta a panettone, potendo piantare gli alberi e le piante sulle cime al più presto, e concludere quella triste storia che è stata la discarica di Collefaggiolara, né ampliandone il perimetro né ampliandone la volumetria autorizzata. Quindi questo, ecco, per chiarezza, insomma, era un dato importante per far capire. Prego. Posso chiedere un attimo una cosa? Te la chiedo amichevolmente. È la volta buona? Assolutamente sì. Perché, insomma, io ho sentito parecchie storie. La mia coerenza, che ho dimostrato già con gli inceneritori, sarà dimostrata anche con la discarica. Ok. No, perché so perfettamente che hai un buon rapporto anche con il sindaco di Paliano. So assolutamente sì. Mi state dando da fare, e noi ci auguriamo, insomma, che questa. Perché abbiamo sentito ogni volta, no? Anche oggi abbiamo risentito entro il 2019. Perché bisogna sempre aspettare tutto questo tempo? Cioè, io adesso non sto criticando. Assolutamente, io lo spiego volentieri, perché è bene fare chiarezza. L'avrai sentito anche tu nel passato, no? Che dicevano fra due anni, fra tre anni. È bene fare chiarezza. C'è un contratto in essere che non ho firmato io, naturalmente. Certo. Con Lazio Ambiente, che scade il 31 dicembre 2019. Io non ho intenzione di rinnovare quel contratto. Io vado al voto in primavera del 2020, quindi sarei un folle se non, diciamo, rispettassi queste scadenze. Io dico che dobbiamo essere seri e non giocare con le questioni che riguardano la salute dei cittadini. Io me ne voglio andare a casa, oppure continuare con il secondo mandato, mettendo in sicurezza le due grandi bombe ambientali della mia città, che sono la discarica e gli inceneritori. Questo lo farò ad ogni costo, l'ho dimostrato con grande coraggio in queste settimane, e lo farò nel rispetto anche del comune di Paliano, che merita tutto il nostro sostegno, perché la selva è stata la parte del nostro territorio più danneggiata da quella presenza ingombrante. Non solo la selva. Da quella presenza ingombrante. Io aggiungo che comunque le residualità non saranno più tal quale, ma saranno solamente di rifiuto trattato. In quell'ambiente io credo che noi dovremo impegnarci a garantire un riscatto del dramma che quel luogo ha vissuto. Io in quell'area sogno di costruire la famosa fabbrica di materiali, un luogo dove si possa riciclare e valorizzare il rifiuto, facendolo tornare a vita nuova, che credo sia il più bel regalo che si può fare a quell'area: smettere di sotterrare i rifiuti e iniziare un percorso che ci renda virtuosi e che ci renda capaci di trasformare il rifiuto in nuova materia che riguarda naturalmente la ricerca e la possibilità di migliorare la nostra economia attraverso la lotta agli sprechi e il riuso delle materie prime seconde. Hai parlato di Lazio Ambiente, poi ti ridò la parola, no, perché io anche le sento le cose in giro, no? Allora, Lazio Ambiente significa, tra virgolette, licenziamento e perdita di lavoro se non viene rinnovato il contratto. È così? Io dico che questa è una grande stupidaggine. Ecco. Tanti comuni hanno deciso di lasciare Lazio Ambiente. Lo hanno fatto irresponsabilmente, lasciando un sacco di debiti e non prendendosi neanche i lavoratori che avrebbero dovuto prendersi. 11 comuni di questa valle la pensano diversamente. Noi stiamo facendo nascere il consorzio pubblico dei comuni, che sarà un consorzio che riassorbirà tutti i lavoratori che potrà riassorbire naturalmente e che avrà come unico scopo il futuro di questo territorio. La raccolta differenziata porta a porta spinta e la costruzione di un'impiantistica nuova che non sotterri i rifiuti e non li bruci. Questo credo che dal punto di vista pubblico sia la più bella risposta che i sindaci di questa terra possano dare a quei lavoratori. Anche per i lavoratori degli inceneritori, che sono di solito i più accaniti, diciamo, in questo momento nei miei confronti, io dico che l'alternativa, anche se non sarebbe un nostro compito, noi sindaci l'abbiamo data. Non tutti i sindaci avrebbero, diciamo, messo sul piatto il terreno e le autorizzazioni che servono per costruire la fabbrica dei materiali. Io ho detto più volte, sia alla Regione che al Campidoglio, chiudete la pagina violenta degli inceneritori di Colleferro, il Comune di Colleferro vi dà il terreno e le autorizzazioni, costruite la fabbrica dei materiali che non brucia e non sotterra ma ricicla i rifiuti e ricollocate quei lavoratori che hanno diritto di lavorare e di mantenere il loro posto di lavoro. Ma secondo te perché non le vogliono fare queste cose? Perché il cambiamento spaventa sempre. Spaventa, ma spaventa anche il fatto che notizia di ieri, notizia ANSA che io ho letto questa mattina, frasi shock di un indagato in merito alla discarica vicino a una scuola che dice queste testuali parole: ci mancavano anche i bambini che vanno all'ospedale e che muoiono pure. Questo è successo a Firenze? Sì, questa è in provincia di Livorno. È in provincia di Livorno. Un'intercettazione. Beh, da noi è successo. Questo è un po' come lo scandalo del terremoto. Da noi non è che non sia successa. Da noi è stata costruita una scuola di istruzione superiore da un privato davanti alla discarica di Colle Faggiolara. Per quella scuola la provincia di Roma ha pagato affitti miliardari per anni. Oggi anche con la città metropolitana di Roma Capitale si sta lavorando per far tornare quella scuola nel centro urbano e per farla tornare in una struttura pubblica. Io ho concluso a Colleferro la stagione degli affitti d'oro, ho riportato la biblioteca comunale in un luogo pubblico, ho riportato il museo archeologico in un luogo pubblico, ho riportato il call center e il centro per l'impiego in luoghi pubblici, ho riportato il 118 in un luogo pubblico e riporterò anche la scuola in un luogo pubblico. Sindaco, perché il patrimonio del comune non è un patrimonio da buttare perché serve pagare l'affitto al privato. Io credo che il patrimonio del comune sia un patrimonio da valorizzare e mantenere. Ti chiedo, scusami l'interruzione, qual è allora a questo punto, quali sono i rapporti con la politica regionale e del Campidoglio? Ne parlavi poc'anzi, proprio perché sono passi importanti quelli di avere dei legami forti con le istituzioni e soprattutto che tipo di atteggiamento, perché tu hai parlato di un salto culturale, hai parlato della raccolta differenziata, di quello che potrà essere tra virgolette il post mortem della discarica. Abbiamo bisogno di una sfida culturale da vincere attraverso il riutilizzo delle materie prime seconde, quindi uno sforzo che le amministrazioni da sole non possono fare, ma che debbono chiedere la collaborazione anche ai cittadini rispetto allo sforzo di portare avanti la raccolta differenziata se non vogliamo continuare ad alimentare queste bombe ambientali. Allora, quali sono i rapporti con la città di Roma, con la regione? Ti possono aiutare in questo percorso o stanno in qualche modo ostacolando, diciamo, questa tua propensione a far uscire la città di Colleferro da questo guado ambientale dal quale si trova? Io credo che la Regione Lazio e il Campidoglio in un primo momento non abbiano compreso la portata della battaglia sugli inceneritori. Voglio essere buono. E questa mancata comprensione ha convinto entrambe, perché sapete che insomma lì il 40% è di AMA, quindi del Comune di Roma, e il 60% di Lazio Ambiente, quindi della Regione. Parliamo degli inceneritori, giusto? Sì, sì. Ad insistere sulla questione del revamping. Un revamping miliardario fatto a due impianti abbastanza scalcinati, costruiti, dicevamo prima, contro il parere della ASL all'interno di un centro abitato e diciamo praticamente in un sito contaminato dal cromo esavalente. La popolazione questa questione l'ha rigettata al mittente in tantissime manifestazioni di piazza, dove le folle hanno detto no al revamping degli inceneritori di Colleferro. Io vengo da un'esperienza di vita e personale nella quale per tutta la vita ho condotto la battaglia contro quegli inceneritori. Ho coerentemente con il mio incarico da sindaco, ma più che altro da prima autorità sanitaria, fatto tutti i passi possibili per manifestare alla Regione Lazio, al Campidoglio, la nostra contrarietà al revamping degli inceneritori. Voi sapete che io ho deciso di trasferire il mio ufficio da sindaco giù nel quartiere Scalo, ho preso il mio ufficio di Piazza Italia numero 1 e l'ho portato nel quartiere Scalo e proprio nella vecchia delegazione comunale a fianco alla parrocchia di San Gioacchino, dove ho fatto apporre le bandiere tricolore europea e del comune di Colleferro per testimoniare la mia presenza in quel luogo, fino a che la Regione Lazio e il Campidoglio non metteranno per iscritto il marcia indietro sul revamping degli inceneritori. Ho dovuto tentarle tutte. Sapete che sulla questione del cromo, l'ho detto prima, presenterò un secondo esposto perché uno l'ho già presentato. Ho dovuto persino utilizzare